Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Debs. Un buon pomeriggio da Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko. In questo giugno bolognese stiamo provando a fare un po' il punto delle tante pubblicazioni che ci sono state in questo 2017-2018, che parlano di storia o in generale affrontano il passato e il suo racconto. Come d'abitudine, passiamo in rassegna riviste, bibliografie e programmi radiofonici, andando a pescare quelli che maggiormente ci hanno colpito. Cerchiamo però di dare spazio alle tante pubblicazioni dal basso, perché queste a loro volta danno spazio a dei progetti di rielaborazione che giudichiamo ancora più interessanti in quanto frutto di una riflessione collettiva e non solo scientifica. Da questo punto di vista, uno dei prodotti più interessanti di quest'annata è il libro autoprodotto Rotte Zora, guerriglia urbana femminista. Edito un'autoproduzione femminista, edito da un gruppo di compagne che si definiscono editrici femministe appassionate. Durante il festival Olé, il festival dell'editoria indipendente che si è tenuto XM24 a fine maggio, ho potuto incontrarle e chiacchierare con loro e che ci hanno offerto così un racconto diretto delle Rotte Zora e della produzione di questo libro. Per questa puntata non ci fermeremo solo in Germania, terra delle Rotte Zora, ma ci spingeremo fino agli orizzonti giamaicani, perché sentiremo le canzoni delle Birrette, una ska band tutta di donne, cosa per niente scontata, che è attiva a Bologna dal 2014. Hanno fatto tantissimi concerti e girato tantissimo anche fuori dall'Italia. Qualche settimana fa a Vaghe 61 hanno presentato la loro prima opera, un bellissimo disco, Girl Songs Only. Le canzoni che sentirete per tutta la puntata sono appunto prese da questo freschissimo disco che vi invito assolutamente a recuperare. Potete trovarle su Bandcamp o su Facebook. Ovviamente, mettendo insieme tutti questi elementi, le strade della storia diventano tantissime, ma ci fermeremo alla guerriglia femminista e allo ska giamaicano, sperando che siano stimoli interessanti. Ascoltiamoci subito Rise Up e ringraziamo le Birrette. Thank you. trasmissione è frutto di un faticoso lavoro collettivo, tanta ricerca, tanta analisi, tanta traduzione e tanto editing. Inoltre l'argomento è davvero originale. Infatti, sul gruppo armato Rote Zora, in italiano, non avevamo ancora qualcosa di così prezioso. Per chi non avesse mai sentito questo nome, diciamo subito che le Rote Zora sono state una rete di gruppi composta da donne e lesbiche che hanno compiuto azioni femministe di guerriglia urbana. Diamo delle coordinate. Repubblica Federale Tedesca tra gli anni 70 e anni 90. Quindi le cose da tenere a mente per collocare questo gruppo sono innanzitutto l'esplosione di una stagione di movimenti in una Germania ancora divisa. E forse sarà inutile dirlo, in questa stagione di movimento anche in Germania il movimento femminista e in fermento. Le donne sono protagoniste, così come le rivendicazioni femministe. Certo è che se si parla di lotta armata e Germania, la prima cosa che ci viene in mente è la RAF e Ulrike Meinhof, che tra tutte le organizzazioni è stata quella che ha portato il livello dello scontro con lo Stato a livello più alto, subendo anche una tragica repressione. Sono quindi un argomento di serie B le Rote Zora? Assolutamente no. Non solo perché per parlare di storia non ci affidiamo solo a ciò che è diventato un po' più comune, ma anche perché le Rote Zora non solo erano un gruppo anticapitalista e antifascista, ma erano soprattutto femministe, sia negli obiettivi, nelle analisi e nello stare insieme. Effettivamente le Rote Zora hanno avuto un percorso molto originale nel pur variegato panorama della sinistra armata europea. Attive fra il 74 e il 95, questa rete di donne e lesbiche della Repubblica Federale Tedesca prendeva il suo nome da una fiaba scritta da Kurt Held, Zora la Rossa e la sua banda. Rispetto alle altre organizzazioni vicino alla sinistra marxista o libertaria, è prima di tutto la caratterizzazione femminista dell'organizzazione a fare di Rote Zora un unicum nella galassia rivoluzionaria europea. Più di frequente è la componente marxista a costituire la linea principale dei gruppi, anche per le donne militanti, come si può tranquillamente vincere, per non fare che un esempio, dei libri della brigatista Barbara Balzerani, che più volte rimarca il suo essere prima comunista e poi donna. Oltre a questa componente, tra le Rote Zora c'è stata anche la vocazione di intervento sociale e di mobilitazione all'interno dell'ottica di movimento dell'organizzazione, composta prevalentemente da militanti non clandestine che mantenevano il loro lavoro. Insieme alla RAF c'erano altre due organizzazioni degne di nota del periodo, il Movimento 2 Giugno e le Cellule Rivoluzionarie. Il Movimento 2 Giugno, che vede la partecipazione di diverse compagne, si basa su un'organizzazione orizzontale e non gerarchica e ha come particolarità quella di voler suscitare simpatia oltre che consenso con le loro azioni. Per esempio, come leggiamo nell'introduzione del libro che presentiamo oggi, durante una rapina regalarono cioccolatini ai clienti della banca. La più importante azione del Movimento 2 Giugno fu il primo rapimento politico effettuato da un gruppo rivoluzionario nella Repubblica Federale, che andò a buon fine. In cambio del rilascio del candidato sindaco di Berlino Ovest del Partito Cristiano Peter Lorenz, chiesero la liberazione di 5 tra compagni e compagni. L'altra organizzazione si chiama Cellule Rivoluzionarie, anche loro di carattere anti-autoritario, e intrecciano azioni anti-imperialiste con azioni antisessiste, antirazziste e antisioniste. Le loro azioni sono forse di minore tono rispetto alla RAF, ma sono costanti e sparse sul territorio e riescono a sfuggire in parte alle grinfie della polizia. Bene, a questo punto, dopo queste piccole coordinate cronologiche, cito direttamente un pezzo del libro. Nel 1975 parte delle compagne delle cellule rivoluzionarie si organizzano in maniera autonoma all'interno della loro struttura, compiendo un'azione dinamitarda in relazione alla lotta contro l'articolo 218 del codice penale che vieta l'aborto. Questo sabotaggio, il primo ed unico firmato Donne delle Cellule Rivoluzionarie, è l'esperienza della quale due anni dopo parte delle compagne delle Cellule Rivoluzionarie traggono forza e ispirazione per darsi una propria struttura e un proprio nome, Rote Zora. Il gruppo separato, il gruppo misto, continuano comunque a collaborare, condividendo diversi obiettivi oltre che strategie, come la necessità di rimanere vicino al movimento, la non gerarchizzazione dei metodi d'azione e la pressa orizzontale. So wrong, it means nothing at all. Nothing at all. Bene, diamo finalmente la parola alle editrici femministe appassionate che hanno curato questo bellissimo libro. Benvenute. Ciao. La prima domanda che vi faccio è quella di raccontarci la storia delle Rotte Zora, di raccontarci insomma a grandi linee le protagoniste, queste particolari protagoniste della storia tedesca. Prego. La storia delle Rotte Zora comunque copre un ampio periodo di tempo, insomma almeno 20 anni per quello che poi ci è arrivato. Le Rotte Zora sono una rete di donne lesbiche che in varie città della Germania, della Repubblica Federale Tedesca, hanno portato avanti azioni di guerriglia urbana femminista. E hanno iniziato come le compagne erano parte del gruppo delle cellule rivoluzionarie, quindi si aggiravano in ambienti misti e hanno portato avanti azioni anche con loro. Una delle prime azioni che le Rote Zora portano avanti proprio come gruppo delle Rote Zora è nel 75, quando mettono un ordigno alla Corte Costituzionale di Karlsruhe, nel momento in cui avevano rifiutato la legge per l'aborto. E questo loro lo fanno proprio non solo per ovviamente sottolineare il loro supporto alla lotta per l'aborto, ma anche per sottolineare come è importante che non sia solamente un aspetto emancipatorio di acquisizione di diritti, ma proprio di distruzione del patriarcato. Un dettaglio molto importante delle Rote Zora, che è un po' la cosa che ci piace molto, è che la storia, che poi magari aggiungerò altri dettagli, certo. Storia delle Rote Zora ci arriva come la raccontano loro, quindi non è una storia che è stata poi manipolata in futuro da chi magari ha subito la repressione, quindi si era ritrovata in carcere o comunque da pentite o da giornalisti, insomma, cioè la storia ce la raccontano loro attraverso le loro azioni, attraverso i comunicati, e quindi non abbiamo altre informazioni oltre a quelle che loro hanno deciso di darci. Da dove deriva il nome Rote Zora? Il nome Rote Zora viene da questo libro per adolescenti che era stato pubblicato da un antifascista tedesco che era scappato in Svizzera, si era rifugiato in Svizzera, e però aveva pubblicato questo libro che si chiamava Rote Zora e la sua banda. No, sì, Rote Zora significa Zora la Rossa, ovviamente. Zora la Rossa era questa ragazzina che con la sua banda, per l'appunto, andava in giro a rubare ai ricchi per sopravvivere. Quindi, insomma, alla base proprio di queste bande c'era la solidarietà, perché era tra di loro si supportavano a vicenda, quindi era proprio un principio base che infatti le Rote Zora poi hanno ripreso. Come poi dice questo slogan che è create le vostre bande, che insomma spingeva quindi a mettersi insieme e a portare avanti nel caso del libro a sopravvivere insieme e a portare avanti delle azioni. Bene, quindi 20 anni di attività di guerriglia urbana e di attivismo, se possiamo dire in senso largo, antifascista, anticapitalista e soprattutto femminista. Nel vostro libro ho fatto una grossissima raccolta e analisi dei documenti di prima mano, giusto? Volete un po' raccontarci il lavoro di back office, dietro le quinte, che avete fatto? Insomma, dove vi siete sporcate le mani? È stato un lungo lavoro, perché noi non abbiamo preso un libro già esistente, l'abbiamo tradotto, ma quindi siamo dovute insomma un po' andare a recuperare quello che ci serviva. E vabbè, il grosso del libro chiaramente sono i comunicati delle Rote Zora. I comunicati delle Rote Zora, la maggior parte si trova anche in un sito, che è un sito che raccoglie anche tutti quelli delle cellule rivoluzionarie, e quindi insomma da lì sono facilmente scaricabili, però non ci sono tutti, e quindi comunque è stato fatto tutto quanto un altro lavoro di cercare anche sono stati autoprodotti alcuni libri sulle Rote Zora anche in Germania, e quindi alcuni comunicati sono stati presi da lì, e si sono state fatte alcune ricerche di archivio, e quindi questo per la parte dei comunicati delle Rote Zora. Però poi il libro comunque abbiamo voluto che contenesse anche una grande parte di approfondimento, nel senso, perché comunque le Rote Zora le loro riflessioni politiche sono molto attuali, però comunque vengono da un contesto da anni che per noi sono lontani, e quindi abbiamo voluto anche dare un po' conto di qual era il contesto politico in cui si muovevano. E quindi è stata fatta anche lì degli studi, delle ricerche approfondite per poi scrivere tutte quante le parti sul movimento politico tedesco in quegli anni, sulle varie ondate di repressione che ci sono state, questo per riuscire meglio a contestualizzare proprio ogni singolo comunicato. Quindi ci sono delle parti approfondite molto lunghe, e poi ci sono sempre delle piccole parti introduttive prima di ogni diciamo, non di ogni comunicato, ma almeno insomma, abbiamo raggruppato i comunicati per macro aree, macro tematiche. E poi insomma, è stata fatta anche tutta quanta una grande ricerca sulle immagini, perché il libro diciamo, ne contiene tante, pensiamo insomma, che sia un valore aggiunto, e ce ne sono tante, chiaramente non sono immagini delle ruote Zara, perché non sappiamo che sono le ruote Zara, però sono tutte insomma, le immagini del movimento di quegli anni, il movimento femminista, e ne abbiamo trovato tante, e infatti non sono entrate tutte quante nel libro, e quando facciamo le presentazioni in giro portiamo sempre una mini mostra di 3 pannelli in cui mettiamo le immagini che sono rimaste fuori. Bene, c'è qualche documento comunicato che vi ha particolarmente colpito? Cioè, per curiosità scientifica, curiosità in quanto attiviste, o perché era semplicemente ben scritto? Vabbè, io sono rimasta colpita, delle cose molto interessanti. Loro hanno lavorato molto sul discorso dell'ingegneria genetica, una critica all'eugenetica che veniva già portata avanti durante il nazismo, e quindi proprio dimostrare la continuità storica, scientifica, partendo sì, proprio delle ricerche che avevano fatto già negli anni 40, che poi furono portate avanti fino al giorno d'oggi, e questo lo trovo di un'estrema attualità, pensando anche adesso a tutto il discorso che ci sono rispetto alle tecniche di riproduzione, e quindi sì, questo sicuramente uno dei punti. Un altro punto è oggi si direbbe intersezionalità, quindi quello che loro riescono già a vedere in quegli anni, proprio l'intreccio del discorso su razza, classe e genere, e quindi è proprio un discorso molto ampio che oggi si parla molto di più, però loro in quegli anni avevano già iniziato a vedere, no, questo intreccio. Secondo me è importante citare Militanza come danza sul ghiaccio, che comunque è diciamo, il loro ultimo documento, che non è un comunicato di rivendicazione, ma è proprio un documento molto dettagliato e anche molto lungo, in cui loro analizzano diciamo, i 20 anni precedenti di attività, e quindi secondo noi è veramente insomma, un documento importante che raramente si trova, no? Cioè, nel senso, un gruppo attivo per tanti anni che poi verso la fine insomma, di quella che è la sua esperienza politica, poi si mette a rianalizzare tutte quante le azioni che ha fatto, anche avendo insomma, come dire, il coraggio di dire ma questa magari la potevamo fare meglio, e si vede l'impronta femminista in questo decisamente, e quindi per quello se noi cioè quello a me particolarmente mi ha colpito, e soprattutto perché è stato fatto proprio con lo scopo di rilanciare la lotta, e quindi in realtà è veramente un documento importante che riporta anche diciamo insomma, nel presente, che era il 95, e tutta quanta una serie di riflessioni che erano state iniziate 20 anni prima, e che una situazione politica totalmente diversa. Totalmente diversa, ma soprattutto diciamo, cioè, si sente proprio dietro, cioè, si sente proprio la continuazione del pensiero, no? Nel senso di queste riflessioni fatte collettivamente. Passando all'attualità, cosa vi ha spinto a scrivere il libro? Cioè, adesso andando anche magari al di là del documento storico, della voglia di fare ricerca, di diciamo mettere le mani fra documenti polverosi o in 1000 ricerche online, a oggi secondo voi perché è importante portare in giro questo libro? Beh, sicuramente il fatto che sono tutti analisi e ragionamenti attuali, come si stava dicendo, però anche per il fatto che appunto le ruote Zora comunque in Italia praticamente sono sconosciute, e quindi queste informazioni mancavano, cioè questa storia non c'era stata trasmessa. E questo sicuramente non è un caso, perché da una parte sicuramente la storia diciamo, la scrivono gli uomini, e quindi in ogni caso le donne hanno sempre dovuto andare a scavare, a ricercare la loro storia. Dall'altra parla anche di una storia in cui invece le donne hanno agito violenza, no? Non erano soltanto vittime della violenza patriarcale, ma hanno proprio utilizzato si sono armate, hanno usato la violenza come mezzo di liberazione, e quindi questa è una storia che doppiamente si vorrebbe dimenticata, e quindi questo è un altro motivo per noi di essere andate appunto a riscoprire questa storia e di diffonderla per non perderla. Beh, poi sicuramente nel dibattito italiano, nel dibattito femminista italiano, la questione della violenza è un po' un tabù, non un tabù, però diciamo un sassolino nella scarpa che ci portiamo dietro come storiche, come femministe, come attiviste, come tutte insomma. E io spero che sia questo libro sia un po' il sasso da dietro allo stagno che poi porti avanti ulteriori riflessioni, sia da un punto di vista storico, sia anche per magari nuove attiviste, nuove compagne, nuove femministe, tutte quelle persone che si interrogano oggi su cos'è il femminismo. Vi ringrazio moltissime. Grazie. Ciao, grazie. Ringraziamo moltissimo le campagne per il tempo dedicatoci. Preparando questa puntata mi sono chiesta perché la storia delle rotte Zora non fosse arrivata in Italia. E parliamo di 20 anni di azioni e documenti assolutamente interessanti. Non è arrivata in Italia non solo nella letteratura, ma neanche forse in un background generale dei militanti e delle militanti. Beh, sicuramente bisogna constatare che forse non è un tema caro alla storiografia, che in generale la storia delle donne ancora oggi è un tema che deve resistere, che deve ancora dimostrare di avere un posto all'interno delle cattedre universitarie o all'interno degli interessi degli editori. Per non parlare poi di quando si cerca di raccontare donne che escono fuori dai soliti canoni. Insomma, sicuramente la dose di patriarcato che investe il mondo dell'editoria e della ricerca è una delle cause, ma penso anche che l'atteggiamento di un certo femminismo italiano non sia meno responsabile. Nel femminismo italiano la questione violenza e non violenza spesso ha riprodotto vecchi stereotipi che vuole le donne come lontane da ciò che è guerra. Donne e soggettività altre. Armi, violenza sono considerate di dominio maschile e se le donne o altre soggettività devono dare risposte non saranno state dello stesso tono. La guerra la fanno i maschi, le donne sono altro. Questo voler a tutti i costi differenziarsi a volte ha lasciato indietro la possibilità di far intrecciare alcune lotte. Speriamo che questo libro riapra il dibattito sulle pratiche femministe, non solo da un punto di vista storiografico, ma anche nei movimenti, sperando che si abbandoni facilmente quelle classificazioni un po' semplici su cosa è macista e su cosa non lo è. Per concludere il focus su le rotte Zora, vi leggo un bellissimo pezzetto tratto da un'intervista alle militanti di rotte Zora che chiude anche l'introduzione del libro. Il nostro sogno è che ovunque ci siano piccole bande di donne, che in ogni città ogni stupratore, ogni commerciante di donne, ogni marito che picchia, ogni editore misogino, ogni commerciante di roba porno, ogni porco ginecologo debba temere che una banda di donne lo trovi per attaccarlo e ridicolizzarlo in pubblico. Per esempio, se aspetti che verrà scritto sul muro di casa sua, sulla sua macchina, al posto di lavoro, chi è e cosa ha fatto. Fra Wempower, Uberal. Sulle note di Jamaica Night delle Birrette, che ringraziamo per aver condiviso con noi il loro ultimo lavoro, vi saluto e vi auguro buon pomeriggio. Long as you say, let's play online. Would you come with me? You can run now, dancing with me. Open your eyes and see. Let's play on now. This is our dream. Waiting the rising sun until the light. Just come.